rolling through lots in a red, green, and black liberation jumpsuit that he's been saving for a proper occasion. And he won't be wearing a process either, because the revolution will not be televised. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down our block. No, no. Ma la vita sociale, come la conosciamo ora, per quanto non perfetta e migliorabile, si fonda sulla possibilità di diffondere in maniera discrezionale diverse visioni di noi stessi, diverse identità in cui gli altri si rispecchiano, contribuendo così a modificarci nelle relazioni sociali. Noi non siamo le stesse persone con chiunque, e non si tratta di avere accesso a diversi livelli di profondità del nostro unico profilo individuale. Si tratta di comportarsi ed essere realmente diversi a seconda della situazione. E questo, anche se può apparire terribilmente incoerente, è quanto mai necessario e positivo per sentirsi integri. Come vedremo meglio più avanti, si tratta di diffondere il sociopotere, rinsaldando le relazioni che ci piacciono, creando connessioni dove prima non esistevano, tagliando i rami secchi, invece di cristallizzarlo in identità fisse. Cumuli di dati aggregabili in segmenti merceologicamente rilevanti per pubblicità personalizzate. Nella vita quotidiana non ci comportiamo nello stesso modo con i nostri genitori e con i nostri figli, non confidiamo le nostre preoccupazioni lavorative ai nostri bambini, a meno che non vogliamo responsabilizzarli per qualche ragione, ma certo usando modi diversi da quelli che impieghiamo per parlare con gli amici dello stesso argomento. Non usciamo a fare festa con i nostri genitori e probabilmente nemmeno con il giornalaio che incontriamo tutte le mattine da molti anni. Anche se accadesse, non ci comporteremmo con loro come ci comportiamo con i nostri amici. Non andiamo a letto con il nostro datore di lavoro, non tutti perlomeno. E quindi non si capisce perché dovrebbe essere nostro amico su Facebook, o peggio ancora condividere le stesse informazioni riservate al nostro partner. Eppure, il legame affettivo con la famiglia non è meno profondo di quello amicale e probabilmente passiamo più tempo al lavoro di quanto ne dedichiamo alle nostre relazioni sentimentali. Semplicemente sono relazioni diverse che disegnano reti sociali diverse ed esigono identità differenti. La puntata di oggi di Mini Pimer è dedicata all'acquario di Facebook. Un libro scritto da un gruppo di ricerca che ha il nome di Ippolita, risponde al nome di Ippolita, che appunto a me piace pensare sia stato dato a questo gruppo in onore, in memoria della regina delle Amazzoni. E, una dei componenti del gruppo di ricerca Ippolita è qui con noi e ci racconterà un po' l'idea di questo libro, che ha appunto questo titolo così singolare, L'acquario di Facebook, gli argomenti sui quali ci aprono un po' gli occhi e ci svelano delle verità nascoste che appunto sono contenute in questo libro. Il libro potete trovarlo in libreria da Tuba qui a Roma e sicuramente in altre librerie, poi ne parleremo appunto con Ippolita per indicarvi dove andare a comprare il libro per finanziare questo ed altri progetti del gruppo di Ippolita, ma in copyleft lo potete leggere e poi anche acquistare dal sito toippolita.net. Ippolita è attivo dal 2005, quindi insomma raccontaci un po' anche quella che è l'idea che sottostà questo progetto e che cosa avete fatto fino adesso. Ippolita nasce sì nel 2005 a Milano, quello che era un hack club, anzi l'evoluzione di un hack club, si chiamava Reload e stava in un centro sociale che si chiamava Pergola, che adesso non esiste più come molti centri sociali di Milano. Noi quindi veniamo proprio dalla scena hacker italiana, veniamo dall'hack meeting, veniamo dagli hack club e ci siamo riuniti nel 2005 attorno alla stesura di un testo che si chiama Open Non è Free, che è un testo sulla differenza tra free software e open source, che è stato edito da Eleutera e che anch'esso è un libro copyleft. Successivamente, nel 2007, abbiamo scritto un altro libro che si chiama Luci e ombre di Google, che è stato invece edito da Feltrinelli ed è sempre copyleft, perché per noi insomma è fondamentale che non sia un reato penale copiare i nostri libri e ridistribuirli. Quello che è importante per noi è che vengano citati gli autori, ossia il nostro collettivo, che è il gruppo di ricerca Ippolita. E questo sì è il nostro ultimo testo, si chiama Nell'acquario di Facebook, la resistibile ascesa dell'anarcocapitalismo, e lo trovate sul nostro sito internet in formato PDF e in formato EPUB, e poi lo trovate anche in cartaceo e in questo caso a Roma lo trovate alla libreria Tuba, dove è disponibile comprandolo. Finanziate le ricerche del nostro gruppo, che è un gruppo estremamente composito, è un gruppo che si allarga o si restringe a seconda un po' del progetto che è in corso. Essenzialmente noi abbiamo un metodo interdisciplinare, per cui ognuno di noi ha delle competenze diverse. Quello che facciamo è osservare un oggetto tecnologico e filtrarlo attraverso gli occhi di ognuno, andando a fare delle conversazioni approfondite che poi diventano man mano dei testi sui quali cominciamo a costruire insomma la critica all'oggetto stesso. Il nostro è un metodo cartografico, per cui noi lavoriamo per mappe, costruiamo delle mappe collettive che diventano poi territori sui quali andremo a costruire tutto quanto il testo. Ovviamente, come dire, questo è un metodo femminista, è un metodo che noi prendiamo in particolare da Rosy Braidotti e dal nomadismo intellettuale, ed è anche uno dei motivi per cui il nostro gruppo ha questo nome di donna, Ippolita, perché ci sembrava importante insomma dare un tributo alla cultura femminista, alla cultura queer dalla quale proveniamo, insomma, oltre che provenire dagli hack club. Perché l'acquario? Perché l'acquario di Facebook? Perché sempre più gli utenti, diciamo l'utente medio, quello che viene identificato come l'utente medio, ha la percezione che internet sia Facebook, come un tempo aveva la percezione che Google fosse internet, mentre invece internet, come anche il web, che è una cosa diversa da internet, sono molto più grandi. Sono molto più grandi e non hanno solo strade illuminate, hanno anche tantissimi angoli bui, hanno tanti vicoli, hanno tanti nodi che non sono visibili. Insomma, la questione di base è che Facebook ci fa credere di essere buona parte del web, così come Google ci faceva credere di poter indicizzare tutte le risorse presenti su internet. Uno dei discorsi molto interessanti che si affrontano in apertura del libro è l'idea, diciamo, intanto del tecnoentusiasmo che sostanzialmente è condiviso da persone sia di destra che di sinistra, che appunto condividono entusiasmo e certezza rispetto alle potenzialità democratiche e di libertà della rete. La tecnologia in generale viene vista come un'arma che ognuno di noi può utilizzare per ampliare il proprio potere, per partecipare alla democrazia e quindi anche per allargarla, qualche volta addirittura per imporla. Dandoci un'immagine della tecnologia che è sempre positiva in se stessa, e se non appunto neutra nella migliore delle ipotesi. E che cosa ne pensa invece Ippolita, che appunto ne racconta una buona parte, che ne parla all'inizio del libro? Sì, per noi è fondamentale sgombrare il campo da questa ambiguità. La tecnologia non è mai neutra, perché la tecnologia viene sviluppata con degli obiettivi precisi. Nella fattispecie Facebook non è stato creato per tenerci in contatto con le persone della nostra vita, come recita lo slogan di apertura. Facebook è stata creata per fare profitto. E quindi bisogna un po' andare a capire poi come Facebook crea profitto. Dal punto di vista, insomma, della retorica della libera informazione, anche lì bisogna fare delle precisazioni, perché in primis la capacità delle macchine di fornire informazioni è assolutamente superiore alla capacità umana di decodificare informazioni. Quindi, in secondo luogo, avere più informazioni non significa immediatamente essere più informati, perché il giornalismo, l'informazione in generale, sono degli elementi che vanno contestualizzati, che hanno bisogno di una narrazione. Il venir meno di questa narrazione fa sì che le persone siano meno informate. Facciamo degli esempi concreti. Una webcam puntata sui bombardamenti di Gaza, che ci fa vedere in diretta le bombe che cadono, non ci rende persone più informate. Ci rende più informato qualcuno che accompagna quella visione con degli elementi che, come dicevo, sono elementi di contesto, per cui che ci dice chi sta bombardando, dove sta bombardando, perché lo sta facendo, quali sono le cause primarie, le cause secondarie, cosa succederà domani, che cosa si sta muovendo nel frattempo. L'informazione quindi risponde a delle esigenze che sono molto più ampie dei semplici 140 caratteri in lingua farsi che noi possiamo raccogliere da Twitter. Avere uno stream di informazioni di questo tipo può essere sicuramente interessante, ma è limitato rispetto all'idea di giornalismo. Si pone a questo punto il problema dei mediatori, cioè chi media l'informazione. Noi abbiamo parlato di questo nel libro anche riguardo a quello che è WikiLeaks, ovvero i grandi mediatori esercitano un potere. Noi questo lo sappiamo molto bene in Italia, perché sappiamo che l'informazione di Repubblica piuttosto che del Corriere della Sera è un'informazione che risponde ai poteri forti. Quindi quello che noi crediamo sia indispensabile è che noi costruiamo degli elementi di autonomia, delle zone autonome dove costruire la nostra informazione, come può essere per esempio anche la radio, dove c'è un tempo per spiegare delle cose, c'è la possibilità di telefonare, di chiedere e di avere delle risposte. Per cui che cosa fa Facebook, per esempio? Si pone come grande mediatore delle informazioni, e quello che noi riceviamo è uno stream di informazioni, per esempio da Gaza, che però va nello stesso flusso di raccolta che quello dove ci sono le torte fatte dal mio vicino di casa, piuttosto che il gioco online, piuttosto che altre informazioni che creano una sorta di rumore bianco che annulla l'efficacia dell'informazione politica piuttosto che dell'informazione culturale. Akin Bey diceva a questo proposito: siamo di fronte a una sorta di collasso cognitivo, cioè le persone non sono più in grado di decodificare il linguaggio pubblicitario dal linguaggio dell'informazione, perché oramai, come dire, siamo di fronte non solo a una Babilonia di segni, ma anche proprio, come dire, a un cannone direttamente puntato sul nostro cervello che ci impedisce di capire cosa ci interessa veramente e che cosa no invece. Uno dei paragrafi molto interessanti, insomma, sui quali mi sono soffermata, affronta il discorso della omofilia all'interno di, diciamo, di Facebook, nel senso che Facebook promuove l'omofilia, la fascinazione di chi si sente parte di una stessa identità, di uno stesso gruppo, di una condivisione sfrenata, mi viene da dire, in cui sostanzialmente ci riconosciamo completamente in quel mi piace che mettiamo sotto un post, oppure ad una fotografia, piuttosto che a un'altra cosa che si condivide, e in qualche modo anche della mancanza del non mi piace, che in qualche modo spiega bene quanto lo scontro dialettico, il conflitto, il non essere d'accordo, cioè il disaccordo, in qualche modo in Facebook non solo non è promosso, ma è praticamente del tutto annullato, cancellato. La risposta che molto spesso si legge quando qualcuno prova magari a dire sì, ma non sono d'accordo, questa cosa non è bella, o piuttosto questa cosa è brutta, è appunto sentirsi rispondere o leggere la risposta di qualcuno che dice: beh, se non ti piace, insomma, semplicemente non venire a leggere, non venire a guardare. Sì, da questo punto di vista si raggiunge il paradosso quando sei costretto a dire mi piace di fronte a un annuncio di morte di una persona, o quando sei costretto a dire mi piace di fronte a una foto di corpi morti, per esempio in guerra. Sì, perché il non mi piace è assolutamente bandito, cioè l'assenza, come dire, del conflitto diretto. Questo non significa che non esistano conflitti all'interno di Facebook, perché poi in realtà ci sono delle polemiche ferocissime, violentissime all'interno proprio della classica dimensione della chat che si crea su Facebook, dove le persone anzi tendono proprio a perdere i freni inibitori di fronte alla critica, protetti dallo schermo, dimenticano le regole base dell'etica, dell'informazione e dell'espressione online, e dicono praticamente qualsiasi cosa. Questo è, diciamo, uno dei più gravi problemi, perché quello che promuove Facebook è una forma dicotomica di mondo diviso tra bianco e nero, insomma, dove non esistono le sfumature, come se fossimo chiusi all'interno di un sistema aristotelico, quello del principio di non contraddizione, quello del principio del terzo escluso, quando noi sappiamo che dal punto di vista tecnologico abbiamo dei manufatti che vanno assolutamente al di là di sistemi così semplici. Se noi pensiamo ad alcuni modelli di lavatrici o alla metropolitana di Tokyo, ecco, quelli funzionano per esempio con la fuzzy logic piuttosto che con il principio di indeterminazione, che dal punto di vista filosofico fa dei passi da gigante rispetto a un mi piace, non mi piace. Per cui il problema, diciamo, è di critica generale nei confronti delle tecnologie. Alcune macchine sono più intelligenti di noi, il nostro smartphone è più intelligente di noi, lavora con delle logiche che sono più avanti di quelle che usiamo noi quotidianamente per ragionare e per relazionarci con gli altri. Questo è un problema, ci vuole una critica a 360 gradi, non si può lasciare, come dire, ai social network la questione della libertà di informazione, la questione della libertà d'espressione, che, come già dicevo prima, non ha non può trovare spazio in soli 140 caratteri su Twitter, ha bisogno di avere dei luoghi in cui contestualizzare, in cui fare una riflessione approfondita, in cui ci sia essenzialmente lo spazio dell'ascolto, perché poi quello che viene meno è l'ascolto, che è la base della comunicazione, è la base di quella che poi è la reciprocità del confronto. Noi in questo senso parliamo proprio della costruzione di un transindividuale, quindi dell'etica e delle regole della comunicazione tra persone. In questo mi viene da citare un filosofo che si chiama Ben Chulan, che abbiamo letto collettivamente recentemente, che è metà coreano e metà tedesco, che parla proprio di piccoli infarti neuronali di cui noi non ci curiamo e che invece diventano delle cicatrici. Noi facciamo finta che non ci sia nessun livello di violenza nella comunicazione che esprimiamo con i social network, mentre invece queste lasciano delle tracce sul nostro corpo. Noi spesso ci dimentichiamo che il corpo è coestensivo alla mente, la mente è coestensiva al corpo, e che quello che facciamo è un'esperienza anche fisica, ma pensiamo che invece sia solo del tempo che passiamo sui social network. Maybe you'll find me. Me between the lines. Maybe you'll find me. I want you to read between the lines. Take your eyes off the surface. Look deep beneath the cover. Cause perception is a must. I want you to read between the lines. Take your eyes off the surface. Look deep beneath the cover. Cause perception is a must. Try to stereotype and analyze me on MySpace and OK Player. Call me a spoken word artist when I'm really a dope poem sayer. On mic and on paper. Think I drink chamomile and I'm a TV hater when really I like vodka shots and watch everything from CSI to Buffy the Vampire Slayer. Read between the lines. Maybe you'll find me. I want you to read between the lines. Swear I'm vegan, but I kill some turkey scrap. But want me to pontificate and debate on the latest police beating or political tobacco. When sometimes I just wanna sit in front of the fire and listen to that shit crackle. I'm not always lying awake for the next problem to tackle. Sometimes I tell jokes and fuck. Read between the lines. Maybe you'll find me. I want you to read between the lines. Maybe you'll find me. Nah, I don't do slams, never have, never will. Won't be no judge, cause it's all about the true art, not just the skills. My poetry's no frills, no fillers, no additives. And yeah, I do burn knock shampoo at the crib, but I also use Lysol spray. Four boys, two cats, and a big ass dog, need I say more? Read between the lines. Maybe you'll find me. I want you to read between the lines. Maybe you'll find me. Yeah, I smoke weed, no, I'm not a Buddhist, I'm Catholic, do I suck dick? Well, let's just say I get it in, so don't trip, I pray I cuss, I'm a banshee and a butterfly, shattered glass when the temper flies high, soft and quiet as an eye, blink when I feel loved and satisfied, wanna heal my soul and the planet, raise my children and never accept no bullshit, always rise to the next level and stay enlightened and cosmic, so if you think you know me, it's shit. Maybe you'll find me. you too. Me between the lines, baby, you're fine. I want you to me between the lines. Take your eyes off the surface, look deep beneath them. Hover, cause perception is a mother. I want you to be between the lines. Take your eyes. Mentre raccontavi questo mi viene in mente un'immagine, una scena che si ripete praticamente sempre ormai durante i concerti, cioè che quando si sta vivendo la canzone a cui tieni di più durante il concerto, il momento che aspettavi probabilmente da mesi, anziché non so, sporgerti verso il palco o metterti più vicino alle casse o insomma in qualche modo metterti in una posizione migliore per goderti quel momento che evidentemente avevi aspettato, accendi il cellulare e fai la foto per metterla immediatamente su Facebook o su un altro social network. Quindi in qualche modo con anche la sensazione, almeno è questa la sensazione che ricevo io, di dover condividere quasi ormai nello stesso momento in cui stai vivendo una cosa, quindi ancora prima di averla vissuta sostanzialmente e di averla elaborata, come facevamo prima con il racconto. Cioè è chiaro che in qualche modo era figo raccontare la nostra presenza a un concerto quando lo diceva agli amici che c'eri stato, che c'eri pure te, che avevi visto questo, avevi visto quell'altro. Adesso non lo racconti più, semplicemente lo condividi nel momento in cui lo stai vivendo, e togliendo però in quel momento spazio a quel momento stesso, quindi a quello che stai vivendo in quel momento. Non so se anche era questa un po' l'immagine che stavi costruendo col tuo racconto. Sì, io credo che ci guardiamo vivere, che siamo presi in maniera voyeuristica da noi stessi. Facciamo una pornografia di noi stessi, in un certo senso, delle nostre emozioni. Appena sentiamo sorgere l'emozione, il primo pensiero è quello di comunicarla. Non si sa bene a chi, non si sa bene perché, ma sto provando questo, quindi sono viva e ho la necessità di comunicarlo immediatamente. Ci stanno educando a questo tipo di pratiche, e noi riteniamo che questo sia un progetto di colonialismo culturale pericolosissimo, perché anche lì guardarsi vivere deve essere un atto cosciente. Posso decidere di guardarmi vivere mentre faccio una cosa, sapendo che sto facendo questo gioco con me stessa, ma devo esserne consapevole, devo sceglierlo. Altrimenti, come dire, ci ritroveremo di fronte a uno scenario che è assolutamente distopico, che noi nel libro andiamo a descrivere sul capitolo che si chiama Il modello sino-americano, dove facciamo un parallelo tra il Grande Fratello e il mondo nuovo, e il Grande Fratello di George Orwell e il mondo nuovo di Aldous Huxley, dove proprio mettiamo a confronto il modello americano, che quindi è quello di Aldous Huxley, con il Grande Fratello, che invece è il modello cinese, quello della statalizzazione di tutti i processi tecnologici. Questo, come dire, di trovarsi di fronte a questa distopia già in atto, che, come dire, è già stata anche raccontata da Naomi Klein, ci pone di fronte, come dire, all'urgenza di parlare di questo argomento. Come movimento, come soggettività politica, noi dobbiamo assumerci la responsabilità di parlare di questo. Non abbiamo delle risposte, non vogliamo dire no a priori, siamo degli amanti esagerati delle tecnologie, amiamo la tecnologia, ma vogliamo essere autonomi di fronte alle tecnologie. Se, come diceva Donna Haraway, stiamo mutando, siamo già cyborg, ecco, allora noi vogliamo scegliere come essere cyborg. E questo, come dire, sia nella chirurgia estetica che nella medicina che nelle tecnologie, noi dobbiamo poter scegliere cosa fare con il nostro corpo e con la nostra mente, che sono poi la stessa cosa perché sono coestensivi. Questo è un punto decisamente fondamentale del libro che noi andiamo ad affrontare sia nel capitolo che, come vi dicevo, si chiama Il modello sino-americano, ma poi anche in altri punti con sfaccettature diverse anche riguardo a quella che, insomma, è il problema dell'identità, che dal punto di vista femminista, come dire, l'identità è il luogo della differenza, mentre invece qui l'identità sembra appiattita su un unico profilo. Siamo le stesse persone con chiunque. Non è così. Siamo, conteniamo una moltitudine. Questo dalla, è un'eredità del Novecento, la scomposizione del soggetto è un'eredità del Novecento, la scoperta dell'inconscio. Noi dobbiamo prenderci cura dei nostri alter ego digitali, che sono sempre multipli, che sono sempre più di uno, anche se ci vogliono far credere di poter raccontare tutto di noi attraverso questo processo della trasparenza radicale, schiacciato sul profilo di Facebook o sul profilo di Twitter. Flash, flash, flashback, 88, caught my first tape, third grade, young girl banging Roxy and Shantae, around my way, Claude McKay, disarray, laced in the dark cues, get bruised, stored away, hey, caught in cage, fought in the maze, gave up, and now I got dreams of being live on stage, what, turn the volume up, me and my cousin doing the WAP, dreaming about the salt and pepper haircut, speakers bump, light as a rock pumps, the rhythm of my next double dutch jump, what you want at once, Pacola Brie love. We dreamed of ourselves, new when Latifah showed us what a queen was. Went from invisible to seen on the smooth tip, sweet tea, to follow Moni in the middle on the scene. Saw them, saw myself, out rock mics when I'm older. Picked up the pen and like internet. This is for Latifah, for life, for Shantae, Bahamadia, Laura Hill, Heather B, for Jean Grey, Eve, Nikki D, Salt and Pepper, even me, a Pony B, for Missy, for Kim, and Foxy. This is for Rod Digger, Rage, Left Eye, for Yo Yo, Prola Perry, Nonchalant, the Brat, for Jane Doe, Rage, Mystic Force, Sparky D, for those never seen, or the search for female MCs, the microphone fiends. Stomped in the 90s after school, you could find me in the backyard begging for a beatbox, rhyming, you and I, T.Y., and Heather B, Blues. Un altro spunto molto interessante era nel paragrafo che si intitola La società della prestazione, l'idea appunto che la partecipazione di massa, invece di dare vita a una autorialità collettiva, quindi anche alla capacità di dire quello che è bello, quello che non è bello, quello che riesce a raccontare qualcosa e quello che invece non riesce a raccontarlo, in realtà appunto si concretizza in una somma di interazioni superficiali. Non è raro, anzi è comunissimo, che molte persone appunto cliccano mi piace su qualcosa che però in realtà non hanno nemmeno guardato, che non hanno guardato fino alla fine, che può essere un film, un cortometraggio, qualcosa che stai condividendo, che magari è anche una cosa bella. E si collega al discorso di questo autore che ho scoperto appunto grazie a Ippolita, che si chiama Richard Foreman, che parla di pancake people, di persone frittella, larghe e piatte. Ti va di raccontarci un po' questo concetto e come appunto rientra nel racconto della quella di Facebook? Sì, Foreman dice: oggi vedo tra tutti noi, me compreso, la sostituzione della complessità interiore con un nuovo tipo di autoevoluzione che avviene sotto la pressione dell'eccesso di informazione, della tecnologia dell'immediatamente disponibile. Un nuovo sé a cui serve sempre meno un robusto patrimonio culturale, dato che stiamo diventando pancake people, persone frittella, larghe e piatte, mentre ci connettiamo con quella vasta rete di informazioni cui accediamo semplicemente premendo un tasto. Perché stiamo diventando pancake people? Perché in realtà è molto più importante fare like su il post di una persona che riteniamo essere un opinion leader, per cui legarci a coloro che sono più cool, piuttosto che invece fermarci a ragionare su cosa è veramente interessante per noi. Questo è un esempio di quella che noi definiamo la società della prestazione, cioè una società dove è più importante come appari, perché magari ti potrebbero chiedere di vedere il tuo profilo Facebook in un colloquio di lavoro, piuttosto che invece decidere di estendere quel mezzo alla comunicazione di cose che riteniamo che vadano anche oltre noi come singoli soggetti. Infatti noi generalmente diciamo ai collettivi: apritevi piuttosto un account collettivo che gestite in più persone, di modo che le informazioni personali rimangano, come dire, nella sfera personale e casomai Facebook sia usato per condividere informazioni riguardo attività o iniziative dei collettivi, cioè limitare l'esposizione di dati personali. Proprio perché una volta che si comincia a interagire a livello individuale, poi fermarsi è molto molto difficile. perché tutti vogliono che gli altri dicano like sui nostri post, e quindi noi, come dire, faremo quei post proprio con l'obiettivo che gli altri dicano mi piace, e quindi andremo a cercare cose che sono interessanti per gli altri, non cose che sono interessanti per noi, perché in fondo abbiamo un po' paura del giudizio altrui, e quindi cerchiamo, come dire, di avere una buona reputazione su Facebook. C'è proprio questo problema della reputazione che soprattutto tra gli adolescenti miete vittime, per cui non si è più degli anticonformisti, si cerca invece di ottenere quanto più consenso dagli altri. E questo problema del consenso è un problema grave, perché non permette alla personalità di esprimersi anche nelle sue idiosincrasie, e questo anche perché, come dice Zuckerberg, ci sono vari virgolettati che troverete nel libro proprio suoi, in cui si dice è finito il tempo in cui potevate essere persone diverse a seconda del vostro interlocutore, siete invece adesso finalmente persone uniche, integre, come se il resto fosse, come dire, immorale. Anche a noi spesso viene detto ma non siete un po' moralisti in questa vostra battaglia, insomma, di critica nei confronti dei social network? Noi alla morale anteponiamo sempre l'etica della relazione, e riteniamo che invece ci sia anche un aspetto di gioia e un aspetto di un elemento trasformativo nel declinare se stessi in maniera diversa, in maniera anticonformista, anche alle volte stando fuori dai social network. Alle volte è più interessante essere tacciati di snobismo piuttosto che, insomma, di voler stare dentro e contro, e anche quello diventa un lavoro estremamente faticoso. Fino a qualche tempo fa, per confermare di essere noi stessi, quindi insomma per poter magari confermare la nostra registrazione ad un sito piuttosto che a un gioco online o qualsiasi altra cosa che si trova online, appunto, era necessario semplicemente fornire un indirizzo email che ci apparteneva e dal quale appunto potevamo poi confermare la nostra identità cliccando sul link che ci veniva inviato. Adesso sempre più spesso invece Facebook diventa il modo per accertare che siamo davvero quello che diciamo di essere, quindi per confermare la nostra identità. Quindi non solo dobbiamo fornire, e questa è la politica di Facebook, la nostra vera identità, raccontare chi siamo davvero e quindi fornire tutti i nostri dati, ma in qualche modo loro, Facebook e i social network, stanno anche acquisendola questa identità e stanno diventando e sono quelli che sono in grado di confermare che veramente siamo noi stessi. Quindi questo concetto di data portability di cui mi parlavi, insomma, magari ce ne vuoi raccontare, spiegare un po' meglio. Sì, perché pare proprio che Facebook sia diventato il padrone delle identità. C'è una guerra in corso su questo, su chi saranno i padroni delle identità, su chi potrà dire che noi siamo veramente noi stessi e non siamo qualcun altro che si è appropriato della nostra identità. Avrete spesso sentito parlare dei furti d'identità. Da chi viene garantita l'identità se non da noi stessi? L'identità può essere garantita da un gruppo di persone a cui noi, per esempio, diamo la nostra fiducia. È quello che noi chiamiamo tecnicamente trusted network, cioè un network di fiducia, delle persone che possono garantire che noi siamo veramente noi. estremamente importante nell'informatica la questione della portabilità dei dati, del fatto che noi possiamo essere padroni di una porzione di dati e lo siamo soltanto noi. Sarebbe bello se la nostra identità potesse venire garantita dal nostro browser, per esempio, o dal nostro computer, o da un codice che conosciamo soltanto noi. Mentre invece, e i nostri amici, quelli veramente fidati però, mentre invece quello che avviene è che c'è una piccola guerra in corso su chi sarà colui, in termini di grandi società dell'information technology, che avrà le identità degli utenti, cioè che potrà garantire che quelle persone sono veramente quello che dicono di essere. È molto divertente perché in realtà ci sono tantissimi bot su Facebook, cioè ci sono tantissimi robot che fanno finta di essere persone e che in realtà non lo sono affatto, ma che servono semplicemente per fare esperimenti, monitorare comunità, cose di questo genere. Dal nostro punto di vista, proprio perché siamo degli amanti delle tecnologie, sarebbe bello che il movimento si dotasse di piccoli robot in grado di assumere le identità collettive, di gestire dei dati che, insomma, non è proprio il caso di demandare al tempo di una persona che debba stare lì forzatamente a mettere tutti gli appuntamenti del nostro collettivo. Per cui in realtà dovremmo essere più furbi, capire dove tira il vento e utilizzare la tecnologia per automatizzare dei processi senza dover dare nulla di ciò che siamo veramente e ricordarci che siamo solo noi i garanti di noi stessi, o semmai il piccolo network di persone veramente fidate con le quali magari facciamo politica e che amiamo davvero. Cyberstalking, touch me in real space and time sometimes, please. Not just via screens and keys and quasi quickies. Play in real space and time sometimes, children, please. Not just via modulated, replicated, simulated matrices. Read, sing, dance, go outside. Sometimes. I chat, I touch, I tune, iPod, I am right here. Hello, see me, hear me, feel me. Sometimes, please. I mean, really, feel me. My energy, my skin, my kiss, my heart, my guts, my insides, my slap on your face if need be, to jar you out of this compu coma you slipped into, snap out of it. Sometimes, please, squeeze some genuine unmachine assisted living into your busy day. Retrieve your thought process and sub-aerial conscience from the death grip of the mainframe. Unpixelate your brains. Sometimes, please. Speak to me in real space and time sometimes.